Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti, da Deborah Rosciani benvenuti a Salvadanaio. Oggi non si può davvero dire che non cavalchiamo alla grande la cronaca economica. Allora, prima la Lega che non lo voleva, poi il compromesso di Arcore per intervenire sulle pensioni e far tornare i conti della manovra pubblica che dovrebbe permettere, se ce la facciamo a portarla a casa, il pareggio di bilancio al nostro paese nel 2013. Però poi effettivamente appunto l'intervento proposto che è uscito fuori era proprio un coniglio dal cilindro e aveva creato immediatamente, l'avete vista scorrere sul web nelle ultime ore, una sommossa fra una platea molto ampia di lavoratori. Qual era la novità? Probabilmente avrete sentito i nostri giornali radio, avrete letto i giornali di questi giorni, avrete sentito la versione di Oscar Giannino. La novità era che dal prossimo anno, dal 2012, il pensionamento di anzianità, quello che si può chiedere dopo aver versato 40 anni di contributi, sarebbe stato possibile esclusivamente con 40 anni effettivi di servizio. Gli anni collegati alla laurea e al servizio militare riscattati fino ad oggi ed anche in futuro non si potevano più far valere, non si potevano più utilizzare per arrivare al tetto dei 40 anni di contribuzione, mentre si intendeva far continuare la loro validità ai fini del calcolo dell'importo dell'assegno previdenziale. Il Blitz, come vi abbiamo ampiamente raccontato, aveva fatto infuriare in particolare certe categorie professionali come i medici, che naturalmente impiegano un certo numero di anni prima di concludere l'università e la specializzazione e quindi prima di intraprendere il percorso professionale. Ma la protesta era montata fortissima attraverso la rete, in particolare per tanti lavoratori. Stamattina lo ha anche ricordato Oscar Giannino, e quindi c'è stata subito la netta sensazione che ci sarebbe stata una marcia indietro su questo punto. Detto fatto, la marcia indietro c'è stata proprio questa mattina. È rimasta in vita quindi meno di due giorni questa norma, la norma sulle pensioni. Appunto, l'annuncio è arrivato oggi dopo un incontro tra il ministro del welfare Maurizio Sacconi, il collega della semplificazione normativa Roberto Calderoli, i tecnici del Ministero dell'Economia. Adesso capiremo che cosa si intenderà fare, e allora noi naturalmente non abbiamo cancellato la nostra trasmissione perché l'obiettivo è a questo punto raccontarvi bene come funziona l'istituto del riscatto della laurea ai fini previdenziali. Come e quando è stata introdotta la possibilità di riscattare gli anni di laurea ai fini del calcolo previdenziale, ma anche il riscatto dell'anno appunto di militare, e quindi abbiamo interpellato l'esperto che su questi argomenti se ne occupa spesso per il Sole 24 Ore e che peraltro aveva già avanzato i suoi dubbi sull'intervento del governo delle ultime ore in maniera molto chiara sulle pagine del Sole di ieri, l'avvocato Giampiero Falasca. Avvocato Falasca, buongiorno, benvenuto a Salvadanaio, bentornato. Ah, buongiorno. Cosa ne pensa di questa marcia indietro? Beh, diciamo che tutto sommato noi ci eravamo permessi, come ha ricordato lei poco fa, ci siamo permessi già ieri sulle pagine del Sole di segnalare che era una cosa veramente poco, diciamo, che faceva acqua da tutte le parti, proprio sul piano anche tecnico. C'erano profondi dubbi di costituzionalità, si andava a toccare dei diritti quesiti, perché in sostanza una persona ha fatto un contratto, chiamiamolo così, anche se tecnicamente non era un contratto con lo Stato, aveva pagato e oggi gli si diceva che non era più valido. Insomma, noi ieri l'abbiamo detto subito, e direi che è molto saggia questa marcia indietro, anche perché aveva un potere evocativo questa norma che è stata un po' sottovalutato, cioè ha infastidito l'opinione pubblica, anche le persone che non avevano effettivamente riscattato, perché se lei si ricorda negli ultimi anni siamo stati bombardati da pubblicità dell'INPS in cui si diceva che al figlio neolaureato non bisognava comprare la macchina, non bisognava pagare il riscatto della laurea. Infatti anche noi campagne, per la verità, l'abbiamo detto più volte con tanti esperti, ci siamo sentiti un po' ieri inutili in questo. Poi, per carità, ognuno facendo il suo calcolo può anche dire: guarda, a me non mi interessa, non mi fido dell'INPS, non mi fido dello Stato, non gli darò mai tutti questi soldi. Però effettivamente proprio il paragone con la macchina è calzatissimo. Allora quel genitore che aveva pagato il riscatto oggi si vedeva veramente messo un dito nell'occhio in maniera molto molto brusca. Cioè non è, non, sapete, non si tratta di innalzare l'età pensionabile, che è una semplice aspettativa, cioè tra 20 anni spero che non cambi, no, è un qualcosa per cui io ho pagato e mi sono nella mia testa portato a casa, quindi è stata un po' sottovalutata l'impatto anche emotivo di questa norma, perché poi se avete visto e l'avete notato, me l'avete detto sicuramente, in realtà la norma era anche circoscritta, cioè diceva che il riscatto non vale solo se si accede al trattamento di pensione di anzianità con 40 anni di contributi, ma diciamo questa, il fatto che è limitato solo a quel trattamento, non se ne è accorto nessuno, noi l'abbiamo detto sul Sole ieri, perché è passato il pugno nell'occhio, cioè il messaggio, cioè si rompeva un principio, capite? Un po' come, e infatti non l'hanno fatto, quando si parlava di andare a ritassare nuovamente lo scudo fiscale, perché non si può fare? Non si può fare perché perde la faccia lo Stato, che ha fatto un patto con dei cittadini, poi magari l'ha sbagliato, poi magari doveva tassare di più. Però sì, poi effettivamente il tema dello scudo fiscale è molto delicato anche per altri temi, però lei ha ragione, no? Certo, per rientrare i capitali io ti ho detto che ti tasso in questa maniera, per quale motivo adesso, poi dopo non ci lamentiamo se ritransitano verso altri lidi questi soldi. Cioè, ti ricambio, e lo stesso era con, cioè io Stato addirittura non solo l'ho fatto, ma proprio ti ho incentivato, ti ho spinto, addirittura nelle campagne, nelle scuole, cioè, fate il riscatto, e oggi ti dico, anche se solo per i 40 anni, ti dico non vale più. Diciamo il messaggio negativo, il messaggio di tradimento è stato talmente forte che tutti, per questo è montata la protesta ieri, per questo motivo, cioè, era un bonus grave. È stata intelligente la mossa dei ministri. Infatti, anche perché se fosse passata bisognava anche, come dire, probabilmente creare delle clausole di salvaguardia per chi magari stava versando, non si capiva bene appunto se si volevano estromettere comunque dal provvedimento. Coloro che già avevano messo in salvo questa cassaforte, mettere in salvo coloro che stanno versando in questo momento, perché anche lì interrompere poi il flusso delle rate già avviate magari da un paio d'anni. Sì, avvocato, certo. Che ci racconti l'episodio, perché così ci caliamo davvero nella realtà e coinvolgiamo di più i nostri ascoltatori. Io peraltro, mi scusi avvocato, poi le faccio raccontare l'episodio, devo anche dire la borsa. Voglio ovviamente, come sempre ai nostri ascoltatori, invitarli a chiamarci all'800 24 00 24 e per raccontarci se vogliono anche loro cosa pensano di tutto questo. Però come sapete salvadanaio è sempre un aspetto che è quello pratico, per cui se volete chiedere chiarimenti sul funzionamento dell'istituto del riscatto della laurea, oltre a tutte le informazioni che trovate sui siti, sul sito dell'INPS, perché adesso è previsto anche che si possa fare con l'online in termini più semplici rispetto al passato, potete chiamarci appunto per chiederci proprio anche delle delucidazioni tecniche, e l'avvocato Falasca stamattina è qui anche per spiegarci proprio questo, a prescindere dalla polemica che si vuole fare appunto su quelle che erano le intenzioni del governo, che sono state appunto annullate proprio negli ultimi minuti. Avvocato, qual è l'episodio che voleva raccontarci? Una cosa piccolissima, proprio per dire quanto è stata strana questa proposta. Una settimana fa, per l'inserto plus del Sole, mi è arrivato un quesito in cui una lettrice diceva: ho dei capitali, la faccio breve, ho dei capitali, devo investirli, una parte la vorrei investire nel riscattarmi la laurea. Siccome era un po' avanti con l'età, a occhio le veniva tanto, io le ho scritto, dice: guardi, in teoria sarebbe una cosa giusta da fare, in pratica di questi tempi non si sa mai, non glielo consiglio perché magari tra 10 anni arriva qualcuno che dice che il riscatto non vale più. Ma era più una risposta di prudenza, esatto, su cui ho pensato. Diciamola, è una convinzione anche personale un po' che lei ha la sua teoria sul funzionamento di questo istituto, poi questo non prescindere che abbia anche una conoscenza tecnica molto approfondita della tematica, però ha detto, insomma, ha fatto questa sua riflessione con questo lettore. Una cosa futuribile, mai pensavo che a distanza di 5 giorni qualcuno veramente l'avrebbe proposta, perché guardate, io ho un'opinione ottima dell'istituto, il riscatto è una cosa molto intelligente. Nel 2007 è stato addirittura migliorato, cioè si è detto non solo i lavoratori ma anche chi ancora deve iniziare a lavorare, cioè quel famoso studente a cui il papà invece di comprare la macchina può pagare, addirittura incentivato a farlo da giovani il cittadino, perché più è giovane meno paga una somma che in funzione dell'età, del reddito, bla bla bla, può essere 20 ma anche 100.000 euro, pagare una somma e gli anni degli studi se li fa valere e ai fini dell'anzianità contributiva e ai fini dell'importo dell'assegno di pensione. Anche perché quindi più si aspetta più l'onere è alto, per cui certo, diciamo che lo si può fare subito proprio anche per risparmiare su versamenti ipotetici futuri. Sì. Ci sono incentivi fiscali, c'è una grossa facilità nei pagamenti perché si può rateizzare fino a 60 rate. Ci sono queste opportunità, ma appunto il presupposto è che il bene a cui io aspiro mantenga tutte le sue caratteristiche, cioè la anticipazione del trattamento e poi l'assegno di pensione, perché guardate, anticipare i 4 anni, perché era giustificata questa norma, si diceva vabbè, ma l'assegno cresce comunque. In realtà anche economica era una perdita, perché se io perdo 4 anni non significa che vado solo 4 anni più tardi, ma perdo gli assegni dei 4 anni. Cioè spendere 100.000 euro per riscatto ha senso solo se ci sono entrambe le facce della medaglia, perché poi parliamo di queste cifre. Ma guardi che anche l'onere per il riscatto per chi esce dall'università è già vale oltre 20.000 euro da piccoli calcoli. Quindi immaginiamo che cosa significa farlo dopo aver versato già 20 anni di contributi, anche perché appunto il calcolo del riscatto si fa sulla base del contributo appunto che si verba, che si versa, secondo la professione che si esercita, secondo gli anni naturalmente anche anagrafici, ci sono tanti aspetti. Allora, proprio tutto questo, avvocato, mi consente di ricordare che adesso racconteremo nel dettaglio, faremo l'ABC del funzionamento del riscatto della laurea, ma anche dell'anno del militare. Valgono le stesse regole, avvocato? No, quello è meno oneroso. Beh certo, intanto è un anno, non sono 4 o 5. È un costo assolutamente non comparabile. Benissimo. Quello che costa veramente il riscatto della laurea. Allora, io le faccio già sentire, avvocato, alcune osservazioni di alcuni ascoltatori. Claudia stamattina ci aveva scritto una mail molto accorata, perché appunto Oscar aveva annunciato che anche noi ci saremmo occupati di questo argomento, per cui ci ha raccontato con una mail che è tra le persone che sta profumatamente pagando il riscatto dei 4 anni legali del suo corso di laurea in economia e commercio, per cui dice ma cosa sto facendo. Claudia, speriamo intanto di averla rasserenata, come ha sentito è saltato tutto, però noi la sua testimonianza la raccogliamo lo stesso molto volentieri. Si era spaventata molto rispetto a questa prospettiva? Buongiorno, sì, mi ero spaventata molto, anche perché stavo facendo qualcosa che non aveva più alcuna finalità sulle mie prospettive di vita, perché se dovevo solo versare per annoverarli in termini di ciò che ho versato, ma non in termini di anni che effettivamente mi sarebbero poi serviti per conteggiare e arrivare ai famosi 40, questo mi ovviamente veniva meno la finalità principale del mio impegno economico, quindi sicuramente questo. Poi l'essersi sentita della privilegiata da parte di un ministro, sicuramente pagando profumatamente e usufruendo di una legge che è una legge dello Stato, perché poi in realtà si fa la domanda, si aspettano mesi e mesi per poter ricevere un calcolo è un calcolo che fanno loro arbitrariamente, dove non è possibile alcun tipo di dialettica. Si accetta o non si accetta? Si accetta pagando o un'unica rata, sì, è vero. Oppure, per fortuna, ho avuto la possibilità di rateizzarle in 120 rate, che sono 10 anni. 10 anni, insomma. E 10 anni, e io pago già da 3 anni, quindi... Quanto paga Claudia mensilmente? Quanto versa? Quanto le costa questo scherzetto da privilegiata? Non vorrei sottolinearlo, comunque supera i 500 euro. Cioè. Quindi mensilmente è una buona... È una rata di un mutuo, Claudia, e naturalmente questo, e noi ovviamente lo auguriamo a tutte le persone che già si sono imbarcate in questo impegno, nella certezza che si conservi il posto di lavoro, che si continui ad avere anche un reddito e un flusso mensile in entrata fisso, perché altrimenti potrebbero anche esserci le condizioni per cui magari lei in un mese potrebbe anche non poter pagare, per cui ha fatto un investimento enorme sulla sua vita futura. Scusami Deborah, se ti do anche del anzi, se non si paga un mese salta tutto il conteggio. Infatti. Ed è necessario fare un'ulteriore domanda, quindi comunque è una priorità quella di pagare, esatto, se si vuole ovviamente ottenere questi fatidici 4 anni computati nel proprio... Benissimo, Claudia, grazie molte, è tutto saltato. Ma volevo sottolineare anche... Devo andare in pausa cosa, perché sennò mi multano, Claudia, possiamo sentirci nella seconda parte di Salvadanaio, perché l'autorità garante delle comunicazioni è impietosa con noi, devo solamente andare in pausa per qualche minuto, tra poco. Allora, eccoci di nuovo a Salvadanaio, come sapete è saltata la norma che prevedeva praticamente l'annullamento della possibilità di utilizzare ai fini del calcolo della pensione appunto di anzianità il riscatto della laurea, il riscatto appunto dell'anno del militare, il tema che ha fatto scattare ovviamente, ha fatto montare la protesta di molte categorie professionali, soprattutto i medici, ma come avete sentito ci sono tanti lavoratori che si sono imbarcati in questo vero e proprio investimento sulla loro vita, che stanno riscattando gli anni di laurea, un investimento che richiede un impegno di 120 rate 10 anni, come il caso appunto dell'ascoltatrice di Claudia che ci stava raccontando, che per lei significa ogni mese sborsare 500 euro. Claudia doveva finire di raccontarci la sua testimonianza, che poi commenteremo con gli ospiti di oggi, nella fattispecie l'avvocato Gian Piero Falasca, che è l'esperto su questi temi e ne scrive molto sul Sole 24 Ore da diverso tempo. Claudia. Io sono una libera professionista, uh-huh, e come tale non ho il lavoro assicurato, ecco, quindi non so nei prossimi 20 anni che cosa mi potrà succedere, quindi io lo avevo fatto e l'ho fatto ovviamente per mantenermi questi 4 anni, uh-huh, in quanto io non ho nessun paracadute di carattere sociale. Certo, quindi lei dice insomma, se il lavoro è difficile, non ho la cassa integrazione, non ho la possibilità, esatto, di andare in mobilità. A 56 anni, se mi succede che non ho più lavoro, almeno posso mettere, mm-hmm, in conto questi 4 anni. Claudia, grazie molte e in bocca al lupo naturalmente, soprattutto per il suo lavoro. Avvocato Falasca, questo è un caso nelle perplessità che lei ha sul funzionamento dell'istituto in termini generali, ma questo è un caso tipico in cui invece ovviamente è un istituto che ha completamente la sua validità, no? Sì. Mm. No, scusi, solo per dire, io non mi fido dei nostri politici, l'istituto lo rispetto molto. diciamo che volevo dire una cosa proprio su quello che stava dicendo l'ascoltatrice. Noi oggi riaffrontiamo il tema di cosa accade a chi sta pagando, perché in effetti il pugno dell'occhio è ancora più visibile. Io ieri sono stato subissato da mail e chiamate proprio di gente che stava pagando, perché proprio era a cuore aperto l'intervento, no? Io avevo un mio vecchio cliente, colpendo in particolar modo i medici, mi sembra un'espressione totalmente appropriata peraltro, ecco. Infatti che per loro fortuna hanno buoni livelli reddituali e quindi hanno anche molto alto l'onere di riscatto, insomma pagare 500, io sentivo anche gente 1000 euro al mese per i prossimi 10 anni, con la prospettiva che non servisse quasi a nulla, era delicato. Allora noi siamo andati a vedere, in realtà c'era un modo per uscirne, cioè siccome diceva anche l'ascoltatrice Claudia, si interrompono i pagamenti, non si ha più il diritto di riscattare tutto il periodo, e se si è coperto almeno una parte significativa, quello che si è pagato non si perde, ma vale per riscattare almeno una parte del periodo. Certo, magra consolazione, perché poi alla fine va a vuoto un investimento. Tra l'altro chi ha pensato la norma non l'aveva, secondo me, fino in fondo calcolato questo rischio, cioè la disdetta di massa dei pagamenti rateali. Infatti, questo sarebbe successo. Infatti, e quindi con altri magari problemi anche per le casse dell'INPS, a cui sarebbero mancati anche questi flussi costanti sui quali fino a questo punto comunque ha contato. Detto questo, avvocato, adesso sentiamo altre testimonianze degli altri ascoltatori, però sì, andiamo anche ai militari, perché veramente non facciamo altro che parlare di laureati, ma qua c'era anche un'altra categoria che si è molto incaponita, che ha riscattato l'anno di militare. Ignazio da Napoli, buongiorno. Salve, buongiorno. Buongiorno. Mi fa piacere che avete centrato in pieno la problematica. Io parlo anche a conto e nome di molti colleghi infermieri che svolgono a tutt'oggi il loro lavoro con il senso di disciplina e di servizio. Io faccio un esempio, va bene, ho 35 anni, 59 d'età, quindi dovrei essere quasi vicino, mi auguro, al pensionamento. Con l'anno di militare che uno riscatta, oppure il master di altri colleghi che hanno voluto farlo per qualificarsi ulteriormente, e poi ovviamente pagandoselo, cercando di sfruttarlo eventualmente in senso benefico del termine per il pensionamento. Dico, voglio dire, ma questa classe politica quando fa questo tipo di atti che rappresentano un'aggressione feroce al lavoro dipendente, e noi infermieri siamo una spina dorsale per la sanità italiana, parlo degli infermieri sia del pubblico che del privato. E poi tra l'altro Ignazio siete pochi, perché gli ospedali ne richiedono tanti, ragazzi, non piace studiare questa materia. Volevo dirle, se mi permette, oltre alla questione del riscatto del militare, ma se, forse non è inerente alla trasmissione, ma l'aggressione tentata al trattamento di fine servizio, al TFR, che hanno cercato di spalmarlo per 2 anni, ma non vogliamo scherzare, cioè, secondo me si è raggiunto un limite di sopportazione che supera, diciamo, la pazienza e la tollerabilità nei confronti di questa classe politica. Cioè, vorrei dire all'avvocato, se si tentasse di fare un colpo di mano sul trattamento di fine servizio e sul TFR, quindi anche sul riscatto, si potrebbe tentare, voglio dire ipoteticamente, un intervento giuridico penale nei confronti dei ministri, dei sottosegretari o di chi si inventa delle cose più folli. Ignazio, come ha avuto modo, è stato sollevato anche, come dire, l'aspetto della incostituzionalità eventualmente di questo aspetto. Si ha proprio la sensazione che si brancoli un po' nel dubbio, nel buio in queste ore. Comunque la manovra si deve portare a termine, i soldi che servono sono quelli, ogni intervento va fatto a saldi invariati, come leggiamo sui giornali, è un termine che magari non si capisce, ma in ogni caso quelli sono i soldi che devono essere portati a casa per arrivare al pareggio di bilancio nel 2013, quindi si tenta il tutto e per tutto, poi si fanno degli interventi, si tentano dei blitz, le categorie si sollevano pesantemente, si deve fare marcia indietro, io veramente non so che cosa porteremo a casa, di fatto questo non piaceva a nessuno, era un intervento assurdo. Detto questo, avvocato Farasca vuole commentare l'intervento del nostro infermiere napoletano. L'ipotesi della denuncia penale la scattiamo. Io voglio dire solo questo: abbiamo di fronte un'occasione storica, cioè i ministri attuali hanno un'occasione storica, cioè 5 anni fa intervenire sulle pensioni significava aprire tavoli, discutere mesi, coinvolgere sindacati. Ora siamo in situazione e poi comunque tutto sommato tanti interventi sono stati portati a casa. Infatti, però siamo in una situazione internazionale tale per cui c'è una sorta di apertura di credito quasi illimitata. Questo per dire cosa? Che ora o mai più si possono fare delle riforme serie e strutturali che non si potevano fare 3 anni fa e forse non si potranno fare tra 2 anni. Invece di fare un pezzettino alla volta con uno stillicidio di interventi che poi come questo rischiano di diventare delle bucce di banana, secondo me è il momento oggi di affrontare il toro per le corna e di decidere se l'età di pensionamento è giusta o se invece bisogna farla salire in modo uguale per tutti di 1 o 2 anni, ovviamente secondo, parlo della pensione di vecchiaia, ma parlo anche delle pensioni di anzianità che ormai sono una cosa che sono state le intoccabili fino a questo momento, e andare a toccare tutti allo stesso modo. Io sono convinto che interventi che tra l'altro porterebbero risparmi enormemente più elevati, ma interventi fatti per tutti, una volta per tutte, in maniera chiara, non solleverebbero questo tipo di ci metto, insomma, l'unica eccezione che dovrebbe essere fatta, secondo me, naturalmente è quella, perché poi molti ascoltatori sollevano anche questi aspetti dei lavori usuranti, quindi quelli che davvero spaccano la schiena alle persone, quindi poi ecco lì dove devono essere create delle sacche di protezione, secondo me tutto il resto poi chiaramente può essere assolutamente toccato. Io capisco che magari un insegnante che è stata sui banchi di scuola per 35 anni non ne può più, però insomma sono anche professioni che si sono scelte e non si può considerare. Vabbè, detto questo, non vorrei poi sollevare altre polemiche da parte di altre categorie, vorrei sentire un po' la questione dei medici, e infatti abbiamo interpellato Carlo Palermo, coordinatore dei segretari regionali di ANAO Assomed, l'associazione dei medici dirigenti. Ci sono anche dei medici in linea che vogliono raccontarci la loro posizione su questo tema. Dottor Palermo, buongiorno, ha sentito? È stato buongiorno. Tutto cancellato, è contento? Prego. È stato tutto cancellato stamattina, sentito, è contento? Ah, sì, ma insomma, che c'era da aspettarselo. Diciamo che la manovra aveva note di cialtroneria, diciamo così. Ma ecco, sì, insomma, per utilizzare un termine edulcorato nella sua responsabilità. Vabbè, insomma, credo altri che si siano sentiti dire hanno usato altri termini. Infatti. Allora, voi avevate preso una posizione piuttosto rigida rispetto a questo provvedimento. Io in realtà mi ero preparata tutto un altro commento con col dottor Palermo, perché essendo un medico, immagino, facendo il coordinatore dei segretari regionali di ANAO Assomed, che cosa ha fatto lei in questi anni? Ha riscattato gli anni della sua laurea? Mi trovo nella situazione in cui si trova la stragrande maggioranza dei medici che andranno in pensione nei prossimi 10 anni, sono circa 62.000 medici dipendenti del sistema sanitario nazionale, che in un contesto ben preciso, quindi in una prospettiva messa a disposizione dallo Stato, hanno sottoscritto un patto andando a riscattare in modo alquanto oneroso degli anni di laurea o di specializzazione per poter poi raggiungere i 40 anni di contribuzione ad un'età decente, cioè intorno ai 63, 64, 65 anni. Faccio notare che l'eliminazione di questa possibilità praticamente metterebbe fuori l'intera categoria dalla possibilità di raggiungere ai 65 anni il massimo della contribuzione, perché noi entriamo sul mercato del lavoro intorno ai 30 anni, 30, super, anche qualche anno in più, anche qualche anno in più, quindi dovremmo rimanere teoricamente in servizio fino ai 72 anni. Io augurerei a questo punto sia al ministro Calderoli sia al ministro Sacconi di trovarsi di fronte a un medico settantenne di notte magari a curare il loro infarto, o meglio forse non sarebbe nemmeno da augurare al peggiore dei propri nemici, a proposito di lavori usuranti, voglio dire. Certo, poi magari un medico a quell'età può fare altro, può fare una consulenza, può fare il primario, il coordinatore. Ma la stragrande maggioranza dei medici ospedalieri si troverebbe poi con questa norma in quelle condizioni, cioè di dover andare in pensione a oltre 65 anni. Questo è l'assurdo della norma. Le faccio sentire, dottor Palermo, la testimonianza di Gemma da Verona, il cui marito è un medico. Gemma, buongiorno. Buongiorno, intanto complimenti per la trasmissione che seguo veramente tutti i giorni e complimenti a lei, alla conduttrice e a Radio 24. Lei è la conduttrice, sono sempre io. Grazie, sì, lei Gemma. È la conduttrice. Grazie Gemma, ci dica. Allora, niente, io volevo soltanto, sono contenta che c'è il dottor Palermo, perché volevo mettere in evidenza una cosa. Appunto, mio marito è medico e anche lui sta riscattando con 800 euro al mese su uno stipendio di 2002 circa, e lui non fa altre professioni perché la sua specializzazione, diciamo, rimanendo onesto, ecco, deve essere utilizzata nell'ambito ospedaliero, per cui lui non riesce a esercitare la libera professione degli spazi. Sì, esatto, perché che specializzazione ha suo marito, Gemma? Radiologia. Certo, quindi ecco, anche lavorando in ospedale, il dottor Palermo saprà benissimo quante sono le, cioè quando ti pagano una prestazione, appunto il tempo non te lo danno di andare fuori. Ecco, e io volevo fare una riflessione, secondo me dovuta, intanto due riflessioni. La prima è se lo Stato o chi è per esso che fa queste leggi è competente, a un certo punto considera soltanto la situazione degli operai e delle persone monoreddito, che sono sempre secondo me più difficili da trovare, perché uno deve evadere, perché come si fa a vivere? Chiunque va al supermercato e si rende conto che con 1200 euro al mese una famiglia con tre figli non può vivere, quindi vuol dire che hanno un reddito extra, quindi a parte questo, diciamo, lo Stato ha capito che deve prelevare dalle persone oneste, dalle persone che hanno un reddito fisso, da dove può prelevare, l'evasione è un altro discorso, però c'è da dire, allora, primo, io penso anche ai miei figli, ai figli degli altri, di tutti, anche l'operaio aspira a che un futuro il suo figlio faccia il medico. Quando lo svecchieremo questo parco medici ospedalieri, come diceva anche il dottor Palermo, tra gli altri problemi, anni, quando lo svecchieremo, quello mi chiedo io. A suo tempo non ho scelto medicina perché un mio zio appena laureato specializzato e che era entrato anche lui tardi nell'ospedale disse: ma dove vai, se adesso hanno assunto tutti i giovani, sai quando si svecchierà sto parco medici? Infatti vediamo che i medici hanno tante difficoltà. Uno guarda solo il lato positivo della medaglia, bisogna guardare anche il lato negativo. Mio marito ha iniziato a lavorare a 39 anni perché si sa com'è, no? Se non sei figlio del professore, la specializzazione, ecco, te la devi sudare, devi andare in giro per l'Italia, certo. Eccetera eccetera. Numero due, i figli sono piccolissimi, lui ha 50 anni, un figlio di 5 anni, ecco, quindi anche questa componente qui. Poi dovunque andiamo con i nostri redditi, ovviamente, uno ha studiato tanti anni, cioè ha uno stipendio di 2000 euro, non mi sembra neanche una cosa eccessiva, è arrivata a 40 anni perché deve comprarsi la casa, deve pagarsi la pensione, eccetera, e poi appunto non sono più 2000 perché tolti quelli, tolti il mutuo, alla fine siamo Gemma, devo circoscrivere le sue osservazioni, mi limito riferimento a quella importante che lei ha fatto. Suo marito ha iniziato a lavorare a 39 anni, ci mancherebbe pure che non avesse avuto la possibilità di riscattare gli anni della laurea, perché veramente altrimenti qua in pensione questa persona rischia di non andarci mai più. La ringrazio, devo andare assolutamente, suggerimenti per chi è in viaggio, poi commenteremo anche con il dottor Palermo, l'avvocato Falasca, questo caso e tanti altri ancora. Vorrei anche fare l'ABC del riscatto della laurea con l'avvocato Falasca, visto che era l'obiettivo della nostra trasmissione, non riesco, ci trasciniamo ancora alla polemica per l'altro aspetto, che era quello appunto della norma che voleva cancellare tutto questo. Allora, eccoci di nuovo in diretta. È rimasta in vita a meno di 2 giorni la norma che prevedeva l'esclusione del riscatto degli anni di università del servizio militare ai fini dell'uscita dal lavoro con 40 anni di contributi, tutto cancellato questa mattina. Molti sospiri di sollievo da parte di molti lavoratori, soprattutto di certe categorie professionali, ma naturalmente rimane ancora un po' di rabbia per le modalità con cui questi interventi vengono fatti e poi cancellati, perché insomma si viaggia ancora un po' sull'onda di eccessiva emotività e si deve invece portare avanti e portare a casa una manovra che vale almeno 45 miliardi di euro, che permetta il raggiungimento del pareggio di bilancio come chiesto appunto al nostro paese entro il 2013. Avvocato Falasca, ce la facciamo, poi commentiamo anche la storia della nostra ascoltatrice di Verona, a fare un po' di ABC dell'istituto del riscatto della laurea. Quando è stato introdotto nel nostro ordinamento e quali ne sono i punti fondamentali appunto che i nostri ascoltatori devono conoscere? Ai fini del calcolo previdenziale, a chi se ne fa la richiesta e come si fa a fare anche un calcolo di convenienza, se è appunto utile o meno imbarcarci in un'avventura di questo tipo, molto onerosa? È molto onerosa, sì. Diciamo, il riscatto come lo conosciamo oggi è stato ritoccato da ultimo negli anni 90. Negli anni 90 e poi nel 2007 con la legge sul protocollo welfare, la legge 247 del 2007. Quindi con questo intervento normativo si è un po' strutturata la disciplina che conosciamo oggi. L'abbiamo detto prima, lo ripetiamo, cioè è un istituto che serve a far valere ai fini previdenziali alcuni periodi di non lavoro. Chiamiamolo così, diciamo, ecco. Ai fini previdenziali concettualmente vale solo il periodo di lavoro, perché sul reddito da lavoro si pagano i contributi. Alcuni periodi di non lavoro sono considerati meritori dalla legge e quindi possono essere fatti valere ai fini della pensione, sia ai fini degli anni necessari per andare in pensione, sia ai fini dell'importo del trattamento. C'era un aspetto che è stato sollevato nel corso della trasmissione, quando la prima ascoltatrice che ci ha chiamato ci ha detto: io ho fatto la richiesta all'INPS per fare il riscatto della laurea, naturalmente il calcolo del versamento mensile che devo fare, visto che ho scelto la rateizzazione da 120 mesi, me l'hanno fatto loro e io non ho avuto nessuna possibilità appunto per poter contestare la cifra, ammettendo che lo volesse fare. Dobbiamo fidarci assolutamente dell'INPS, avvocato Falasca, oppure magari è bene che qualcun altro ci faccia anche un ipotetico conteggio del versamento mensile? Beh, è giusto, diciamo che quella non l'ho tanto capita, nel senso che indubbiamente è giusto che l'INPS, cioè, aprire un negoziato sul riscatto sarebbe un po' curioso. Però è giusta la sua osservazione. Noi prima di farci, perché come funziona? Si fa la domanda, in effetti si aspettano molti mesi, perché in Italia ci vuole tempo per fare le cose semplici, e arriva il conteggio. Noi però possiamo andare a un qualsiasi CAF, un centro di assistenza fiscale, e farci fare, ora non vorrei dire una scemenza, in caso spero che i CAF non lo facciano pagare a me, ma credo che sia anche gratuito, ci si fa fare una simulazione del costo del riscatto, perché i centri di assistenza fiscale... Sì, ma magari si va al centro di assistenza fiscale che si usa ogni anno per fare la dichiarazione dei redditi, e magari in un momento diverso ci fa una consulenza di altro tipo, certo. Ci fa una simulazione e già si sa, credo al centesimo, ma anche se non si sa al centesimo, sia un'indicazione dell'importo che ci verrà richiesto all'INPS. Se ci si convince, si fa la domanda, si aspetta che l'INPS risponda. Se l'INPS risponde, si hanno 60 giorni poi per pagare, o si paga in unica soluzione, oppure si fa il pagamento rateale, come è stato detto, si può arrivare fino a 10 anni. Senta, è molto semplice, sì, nella struttura. Infatti, il problema è capire se ci si riesce, come dire, a barcamenare poi nel bilancio quando deve uscire mensilmente una cifra piuttosto alta come quella che gli ascoltatori ci hanno indicato, 800 euro nel caso del marito di Gemma da Verona che fa il medico, nel caso della nostra libera professionista, appunto l'ascoltatrice iniziale Claudia, 500 euro, sono tanti, sono il mutuo, cioè è un terzo dello stipendio, quando va bene, perché no, vabbè, per uno stipendio normale, ci sono degli stipendi anche più contenuti e pertanto appunto il riscatto della laurea non si può neanche immaginare e sognare dipinto. Io ho centinaia di messaggi da parte dei nostri ascoltatori. Abbiamo spiegato come si fa il riscatto della laurea per l'anno del militare, è ferrato, avvocato Falasca, si segue la procedura. Tra l'altro l'INPS adesso permette di fare tutto online, basta avere appunto il codice PIN che l'INPS dovrebbe aver inviato a tutti gli iscritti appunto l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, pertanto si può fare anche lì una ricerca delle informazioni per poter verificare l'ammontare dei contributi da riscatto per il corso di laurea necessario almeno per fare il riscatto. Il sito dell'INPS è ottimo, è fatto veramente bene e anche molto fruibile, quindi chi vuole andarsi a vedere anche a scaricare il modulo va su INPS.it e trova tutto in maniera anche rapida e semplice. C'è anche l'informazione, perché lì veramente non l'ho cercata stamattina per fare il riscatto dell'anno da militare? Sì, sì. Allora, là c'è un linguaggio leggermente criptico, ma bisogna cercare alla voce, no, perché diciamo le cose possiamo farle bene ma non benissimo in Italia. Diamo alla voce contribuzione, si deve andare a contributi individuali, non a contributi da lavoro. Diciamo qua chi ha scritto le maschere presuppone che ci sia un lungo studio di previdenza, però perché la distinzione è concettualmente giusta, non sono contributi da lavoro, sono contributi individuali. Lì dentro poi ci sono quelli da riscatto e quelli figurativi, insomma ci si trova, oppure c'è la maschera cerca e si trova. Avvocato, però devo dire, però devo dire che al netto di questo è un po' difficile magari quest'ultimo passaggio, è un sito fatto veramente bene e una volta tanto che una pubblica amministrazione fa cose utili. Noi ne abbiamo parlato tanto, peraltro proprio all'inizio dell'anno abbiamo avuto molto spesso ospite il presidente Mastrapasqua che ci ha spiegato tutta la rivoluzione tecnologica dell'Istituto di Previdenza. Senta, lei prima, avvocato Falasca, ci diceva che per quello che riguarda i ragazzi che escono dall'università e possono fare immediatamente il riscatto della laurea, permettendo anche di farlo questa operazione ad un onere molto più contenuto rispetto a quello che si deve sostenere se invece se già si lavora. Appunto, infatti è il classico, quello che abbiamo suggerito, regalo del genitore al posto dell'auto come regalo di laurea. Per il militare vale lo stesso, nel senso facendolo immediatamente, ma adesso il militare non si fa più. La tua domanda avevo anche una risposta, cioè fin quando era valido comunque ci voleva almeno un contributo previdenziale versato, quindi il presupposto era sempre che si dovesse essere un lavoratore. La cosa fatta nel 2007 sulla laurea è stata una deviazione grossa dai principi per la finalità di spingere i giovani a farlo, perché concettualmente riscatto solo se sono un lavoratore. Quindi la rottura concettuale è stata forte. Non sono ancora un lavoratore, non ho mai versato un contributo previdenziale, ma già riscatto. Benissimo. Gualtiero da Venezia. Pronto. Buongiorno. Buongiorno. Allora, innanzitutto complimenti per la trasmissione che ascolto quotidianamente. Molto bene. Il problema che ponevo io, dopo aver passato un paio di notti insonni e contento del fatto che abbiano deciso di cancellare questo intento, sì. Mi resta comunque il dubbio che magari nel pensare così bene le cose non la tolgano in maniera tale da salvaguardare i diritti di chi ha già completato il pagamento o è in corso di pagamento come mia moglie, e magari lasciano fuori le persone che hanno, e io l'ho fatto lo stesso giorno in cui l'ha fatto mia moglie, richiesto di riscattare e non sono ancora state contattate e non si è mai capito il perché. Pare proprio, insomma, forse estraggono una sorte o cose del genere, non hanno ancora potuto accedere al pagamento e che quindi si possa perdere un diciamo un diritto che credo possa essere. No, Gualtiero, guardi, è stato assolutamente stralciato tutto, avvocato Falasca me lo conferma. Cioè adesso, a parte, io leggo le agenzie esattamente come può fare da internet l'avvocato Falasca insieme a me in questo momento. Poi sì, tra l'altro, se per caso anche nell'ipotesi in cui dicessero no, per il futuro non vale, per il passato li salviamo, e Gualtiero dovrebbe fare solo una cosa: non paga il primo bollettino e sta fuori. Certo, lui dice voglio evitare di perdere l'opportunità. Io, a costo di sembrare antipatico e molto politically incorrect, io dico anche a Gualtiero che non è detto che sia un disastro, perché è un'opportunità che presuppone che dietro ci sia un sistema paese coerente. Ecco, allora, 30 anni. Allora, detto questo, magari per chi ha ancora dei dubbi, visto che come avete visto, avete avuto modo di comprendere perfettamente che viaggiamo ancora vista sul tema, se non avete ancora iniziato, anche se avete la domanda in sospeso all'INPS, se non avete ancora iniziato a versare, magari manteniamo ancora le bocce ferme per qualche settimana, avvocato Falasca, poi in attesa di maggior chiarezza decidiamo che percorso intraprendere. Possiamo fare così? Ecco, aspettiamo ancora un po'. Non c'è bisogno di prendere una decisione di questa portata da oggi a domani mattina, soprattutto se non avete già iniziato a pagare e se siete insicuri sulla strada che prenderà questo provvedimento, aspettate ancora un po' e poi saremo qui a vigilare e dirvi cosa è necessario fare. Io vi ringrazio, c'era anche un altro ascoltatore, Gabriele da Vicenza, che voleva chiedere, visto che è un lavoratore autonomo e si sta laureando, poi può riscattare la laurea? Questo pure è un bel tema, avvocato Falasca, in 10 secondi. Sì, mm-hmm. Può farlo tranquillamente. Ci fermiamo. Io ringrazio anche Carlo Palermo, coordinatore dei segretari regionali di ANAO Assomed, per essere stati con noi. L'avvocato Falasca, ritorneremo, vigileremo su questo argomento che ci sta molto a cuore e ci ritorneremo sicuramente anche più avanti, quando la manovra sarà definitiva, legge dello Stato, e tutti i provvedimenti saranno appunto completi e dettagliati. Buona giornata a tutti.